Pane, burro e rock and roll sono le 8. Benvenuti, benvenute. Pane, burro e rock and roll. Allora, il Castiglioni Mariotti c'è ancora. Colazione roll. Grazie Luna e alle altre SMS. Ogni giorno alla mattina. No, scusate. Era un problema della prima ora che abbiamo già risolto. Benvenuti alla seconda di ora, scintillante e fiammante. Una colazione unica che vi porta dritti dritti fino alle 9 del mattino. Anche quest'oggi provineremo uno di voi là fuori, o forse una, per diventare musicista rock con la bocca. Non siate timidi, iscrivetevi anche voi al servizio al 335-100-7777. Fammi buttare un occhio alla scaletta. Abbiamo una notizia niente male quest'oggi da commentare. Il nostro patentato 147 sta ascoltando il ruggito del coniglio su Radio 2 e ci deve far sapere come va. Rosy, ci sei? Abbiamo qualche uomo nudo da vedere stamattina? Insomma, piatto ricco, mi ci ficco. E il film della settimana? Ah, adesso, balle spaziali. Buon ascolto. Sparate qualche colpo di avvertimento. Questa è una vecchia di grotta, ci vogliono ammazzare. Non possono farmi questo, io sono ricca. Attento idiota, ho detto qualche colpo di avvertimento, non di abbatterla. Mi dispiace signore, faccio del mio meglio. Chi l'ha fatto tiratore scelto? Io signore, è mio cugino. E quello chi è? Quello è stronzo signore. Questo l'ho capito, come si chiama? Stronzo signore, è il suo nome, maggiore stronzo. E suo cugino? È stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto, Philip Stronzo. Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave? Veramente! Lo sapevo, sono circondato da stronzi. Continuate a sparare, stronzi! Radio. maestro, ho una notizia, la getto nel cestino. Aspetti, aspetti, aspetti, perché la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll ci consiglia di pensarci bene prima di scartare lo scartabile. Allora torno a riprenderla, mi scusi, eccola qua. No, no, proviamo a conservarla, proviamo a rileggerla, ricicliamola. Lo strano ma vero di quest'oggi, le ansie in ansa. Vado col titolo? Ah sì, oggi sono particolarmente eccitato perché ho già sbirciato l'occhiello. Hitler, le sue stanze erano delle camere a gas. Stupenda questa notizia. Il dittatore tedesco Adolf Hitler, responsabile dello sterminio degli ebrei, soffriva di una flautulenza colossale. Le sue camere? Leggendo i rapporti del suo medico personale, il dottor Theo Morell, si intuisce che le sue stanze dovevano essere delle vere e proprie camere a gas. A darne notizia è stato il quotidiano americano Boston Herald, che sulle proprie pagine ha riportato stralci dei referti. Hitler, testimoniò Morell, non mangiava che verdure, preferibilmente crude, in quanto considerava tutti i cibi cotti come potenzialmente cancerogeni. Nel corso delle interrogazioni condotte dalle truppe occupanti alla fine del conflitto, il medico rivelò che il dittatore era affetto da costipazione e flatulenza colossale, chiuse le virgolette. Un problema non raro, penseranno alcuni, eppure il dottore specificò che neppure lui, nei molti mesi di attività, aveva mai avuto modo di assistere a un caso così disperato. Ottima. Insomma, la notizia di quest'oggi che ci fa rinquadrare il cattivissimo Adolf Hitler con questo piccolo ma grande problema di flatulenza. Sa come possiamo chiusare? Chiusare riducendolo veramente. Le leggo dagli occhi che ce l'ha. Chiosi, la prego. Sì, vorrei. Posso fidarmi di lei? Sì, vada. In questo caso credo di sì. Vorrei riportare Hitler ad un livello umano, anzi subumano, con la seguente dichiarazione. Finalmente sappiamo che anche Adolf Hitler era uno scoreggione. Oh yeah, tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. Inside, it's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something, I think you understand. When I feel that something, I wanna hold your hand. Bravo. Beatles, I wanna hold your hand. Voglio prendervi per mano, mani in manetta. Anche noi vogliamo prendervi per mano e trasportarvi fino alle 9 del mattino. Ma devo dare il bentornato a un fedelissimo, patentato 147 Ciao Andrea. Ciao Iene, è uno sporco mestiere, ma qualcuno deve pur farlo. Andrea passa le sue mattine sognando di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll, perché in realtà ascolta la concorrenza per studiarla. Esatto. La nicchia vincerà, ricordatelo, caro Andrea. Ma senz'altro, non ho alcun dubbio. Allora, siamo al Ruggito del Coniglio. Sì, Radio 2. Del Coniglio, Radio 2, una trasmissione direi, vabbè, storica, strutturata. Sì, abbiamo già introdotto qualcosa nella puntata precedente. Non so se hai sentito, ma ieri un amico diceva: ascoltavo i conigli fino a qualche tempo fa, adesso ascolto voi. Prego, scusa, era solo per dirla. Vai. Bene, bene. No, volevo approfondire una delle tante rubriche che ci sono in questa trasmissione. Vero? Ce n'è una che assomiglia un po' alla nostra. Il Cavaliere del Coniglio. E praticamente il Cavaliere del Coniglio, loro attribuiscono una missione ad un ascoltatore che invia foto e candidatura, tra l'altro via mail. Ma che tipo di missione? Ma sono delle missioni abbastanza, delle missioni un po' particolari, tipo quella che c'era in una puntata che mi sono annotato. Sì. È un tal Pio da Treviso. Sì. Alla voce mi è sembrato un signore di una sessantina d'anni. Sì. Sostanzialmente, visto che fa molto freddo, praticamente gli attribuiscono questa missione di trovare qualcuno tra le sue conoscenze e contatti che porti ancora i mutandoni di lana. E lui nel corso della trasmissione, esatto, lo deve trovare. Bello. Esatto. Lo richiamano dopo una ventina di minuti, risponde ancora Pio da Treviso: sì, ho trovato un mio amico Filippo che gestisce una pompa di benzina, siamo nel Trevigiano, insomma, da queste parti, e porti i mutandoni. Allora, chiaramente il conduttore gli chiede anche di: ma hai provato, te li sei fatti vedere? Ah beh, certo, me li sono fatti vedere, ha tirato un po' i pantaloni. Abbiamo capito, Andrea. Tra l'altro stavo pensando, è una cosa che facevo, adesso non voglio sempre fare per vantarmi, però a Radio Lupo Solitario tantissimi anni fa, lo facevamo il sabato pomeriggio con i ragazzini in piazza che facevano le vasche e gli davamo delle missioni. Però sarebbe carino. Non so se a quest'ora ce la facciamo per quella maledetta storia dell'ascolto frazionato, nel senso che se gli diamo la missione alle 7:30, poi alle 8:30 questo è a lavorare. Ma che tipo, cioè, che tipo di missioni potremmo chiedere, Andrea, secondo te? Ma oddio, secondo me già un po' lo stiamo facendo. Io, Rosy, il tassista. Sì. In questo senso io ho trovato anche un'analogia. Poi se vogliamo fare delle missioni proprio brevissime, lampo, nell'arco di Andrea, una sai cosa mi piace? Che sempre da signore fai intuire che c'è del plagio, ma lo fai sempre con classe, grazie. Non proprio sempre. Apprezzo questo tuo modo di fare. Beh, ci pensiamo, questa della missione è una buona idea, bisognerebbe riprenderla sempre. Un'altra piccolina che secondo me è anche attinente ai nostri argomenti è il campionato di musica ripugnante. Ah sì, beh, anche questa sarebbe da fare. Questa è carina, sono dei brani che ovviamente mandano via sempre via mail gli ascoltatori, e poi loro fanno riascoltare e praticamente mettono in pole position un paio di brani, li fanno ascoltare durante il pezzo di trasmissione, e poi c'è il voto degli ascoltatori che votano via SMS. Ho capito, di quello brutto però. Sì, beh, chiaro, il più brutto è quello più ripugnante. E in questo potremmo anche essere aiutati, perché essendo noi amanti della buona musica, esatto, basterebbe chiedere, appunto, tipo al ragazzino di prima, Tommy, cosa ascolta tua sorella, eccetera. Però se io metto un pezzettino di quella musica lì, lo sai cosa succede? Mi uccidono via SMS. Anzi, qua la curva subisce un impero verso il basso. Esatto, vengono qui a riempirmi di botte. Vabbè, posso anche accettare il rischio, Andrea, guarda. Ci lavoreremo su. Intanto per settimana prossima hai già qualche idea su cosa ti vuoi buttare? Io direi 101. Ai ai ai ai ai, l'ammiraglia. Beh, perché no? Perché no? Va perché bene. No? Sempre ti vuoi fare del male, Andrea, mi piace questa cosa. Dobbiamo combattere contro i più grandi, perché siamo i più grandi. Dobbiamo farlo, caro Andrea, come dici tu, è uno sporco mestiere, ma qualcuno dovrà pur farlo. Allora, settimana prossima con l'ascolto di 101, 101, che si chiama R101, perdonami, se no si arrabbiano. Sì, ok. Sì. Andrea, un abbraccio. Ciao a tutti, buon grazie. Weekend. Ciao. Altrettanto, ciao. Che a cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat, Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Io non so veramente che posizione prendere su questa cosa del nostro piccolo Francè. È un piacere sentirlo, ma è imbarazzante gestirlo. E soprattutto è imbarazzante sapere che ci telefona da scuola quando invece dovrebbe fare lezione. Questa sì, cosa. E noi non, che non vogliamo trasformarci in moralisti, no, siamo comunque molto spiazzati. Dovremmo averlo in linea anche quest'oggi, il nostro giovane di riferimento, Francè. Ciao Francesco. Francè, mi piacevi di più quando la cantavi a squarciagola. Gola, vuol dire a che scuola, sei stai a scuola, scuola, ecco, niente, scuola, esatto, avevo in bagno. Stai in bagno, ti sei rifugiato in bagno. Finalmente impari che andare a scuola è una cosa bella. Ci sono le ragazzine, e noi lo sappiamo, Francia, che le ragazzine impazziranno per te. Dai, sì, c'è ma il giù. A me non frega niente, ragazzine. Oh. Come? Non ti frega niente? Non importa, ma che è? Vogliono fare limonata, limone. Ma io che schifo, limonata. No, ma aspetta, ma sai cos'è la limonata, Francia? Da lemon soda, no? No, no, esatto. Metal. Aspetta, che tenerezza. Concedo a Freak di spiegarti cos'è una limonata. Che tenerezza. Ma come? Ma mi passa questa patata bollente, DJ. No, no, è un bacetto. È un bacetto. Oh, è un bacetto con la lingua. La lingua? Sì. Che schifo, ma che è sta roba? Metal! No, ho capito. È meglio il metal, Francia. Vedrai che imparerai ad apprezzare queste cose. Piano sì, piano. Ma tanto io che ci fa? Io sto al bagno, io in bagno faccio le cose mie, cosette. Francesco, cosa stai dicendo? Aia. No. Bagno, cosette mie, che me frega fuori? Io in bagno. No. Le cosette mie, no? Frega, questa cosa si dice? Ma fare mai? Gli ricordi che si diventa cieco. Sì. Meglio trattenersi, non esagerare, Francesco. Francesco, guarda che fa male fare quelle robe lì, eh? Male? Ma di che? Perché? Chiudo in bagno, guardo riviste, me le attacco le figurine in modo così. Ah, scusa, ma dove le attacchi? Dove le attacchi? Attacco con l'accesso, no? Sì, li guardo, guardo. Le figurine dei motori. Francesco, vai a lezione, per favore. Vai in classe, torna dai, in classe. Ma anche mo sto qua, devo attaccare ancora tutte le figurine negative. Va bene. Mi fa squadra. Senti, Francesco. Manca il portiere. Io faccio sempre FIFA distraction nei negative. Ciao, Francè. Ciao, fai pure, ragherò. Ciao, Francesco. Fai pure, ragherò. Thank you. Caro Roberto Friccantoni, nel test attitudinale di quest'oggi ci occupiamo di rumors. Rumors? Sì, sì, sì. Uno che è una rockstar, non è solo una rockstar, no? Poi no. Ha in giro, intorno a lui, anche un sacco di altre cose. Ma certo. È un essere umano, fa cose, la gente si informa, ma cosa fa quello lì? Chi è? Ma chi è? Ma cosa fa? Ma cosa vuole? Quanti rumors girano intorno, gravitano intorno alla sua persona? 175. E li conosce tutti, li ha catalogati. Ma ovviamente non ci, non ci occupiamo di Roberto Friccantoni, bensì di Michael Stipe, cantante degli R.A.M., meglio conosciuti come REM. REM, Remote Eyes Movement. Perfetto, nello specifico di una particolarità legata allo stesso Michael Stipe. Forse non tutti sanno che, due punti. Ipotesi A, Michael Stipe è stato per due anni il fidanzato di Freddie Mercury dei Queen. Ai ai ai, è forse giusta? Ipotesi B, Michael Stipe è stato il padrino di Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Hai capito? È forse quella giusta? Oppure? Oppure il nostro Michael, cantante dei REM, è stato colui che nel 1972 convinse il suo compagno di università, Paul Stanley, a presentarsi ai concerti con il viso truccato. Fu lui ad inventare le maschere dei Kiss. Qual è la soluzione esatta, la A, la B o la C? Beh, la risposta ve la diamo tra poco, la soluzione esatta a poco dopo. Pastorius, McCartney, Jack Bruce. Beh, loro sono veri maestri del basso. Amici, fidatevi di noi, non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare il basso con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare bassisti rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un sms al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca.